Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma di attualità, cultura, musica, filosofia che guarda al mondo con gli occhi degli altri animali. Il programma che si definisce animalista, antispecista e vegan e tenta di fare la sua parte verso una società non violenta, rispettosa di tutti gli esseri viventi e quindi davvero capace di futuro. In questa puntata parleremo fra l'altro di orsi minacciati dal turismo, di gabbie da svuotare, di gorilla fotogenici e saremo accompagnati, come al solito, da un'accurata e motivata selezione musicale. Cominciamo questa puntata parlando dell'orso marsicano, che ancora resiste e continua ad abitare l'Appennino centrale, ma che è sempre più a rischio. La popolazione residua non supera i 40 esemplari, secondo gli ultimi rilevamenti, e fra queste le femmine in età riproduttiva sarebbero solo 4 o 5. Non è quindi un azzardo parlare di una seria minaccia di estinzione. Mario Tozzi, divulgatore e ricercatore, comincia così un articolo uscito nei giorni scorsi sul quotidiano La Stampa. Forse, nei prossimi 100 anni, l'orso marsicano non abiterà più le montagne dell'Appennino centrale, che gli appartenevano da milioni di anni. L'orso è minacciato da fenomeni ben conosciuti che ne riducono l'habitat e le opportunità di vita, la costruzione di strade e piste da sci, insomma il consumo turistico del territorio, che richiede alberghi, ristoranti, vie d'accesso, parcheggi. In passato era stato lo sterminio diretto, la caccia, a ridurre drammaticamente la popolazione di orso marsicano. Tozzi ricorda che il Parco Nazionale d'Abruzzo era nato nel 1923 proprio per proteggere l'orso e il camoscio, specie pressoché distrutte da una caccia feroce e dissennata. Il paradosso è che solo la Prima Guerra Mondiale, con la partenza di tanti giovani per il fronte, aveva salvato l'orso e il camoscio dall'estinzione per caccia. Forse siamo ancora in tempo a salvare questi magnifici animali che hanno reso famoso lo stesso Parco d'Abruzzo, finito a quanto pare in una spirale di autodistruzione per fame di denaro e di turisti. Una fame che spinge a compiere scelte insensate, come la distruzione di grandi fette di bosco per costruire piste da sci e relative vie d'accesso da utilizzare per un mese o poco più di apertura invernale. L'orso marsicano, in sostanza, sta sparendo, perché continua a prevalere un'idea di sviluppo malata e irrecuperabile, la stessa che guida le scelte politiche ed economiche da numerosi decenni. È qui probabilmente che risiede il male, neanche tanto oscuro, che sta distruggendo la bellezza e la biodiversità del nostro mondo. Thank you. Parco Nazionale del Virunga in Congo è una delle riserve naturali più grandi e più importanti al mondo. È anche una delle più minacciate da guerriglieri e bracconieri, visto che si trova nel cuore di un paese tormentato, colpito dalla disgrazia di conservare nel suo sottosuolo risorse naturali e materie prime così ingenti e così preziose da muovere appetiti economici e interessi finanziari enormi e disposti a tutto. Il Congo vive una condizione di guerre e guerriglie quasi permanenti e anche i parchi nazionali inevitabilmente ne risentono. Fra gli animali protetti nel Virunga c'è naturalmente il famoso gorilla di montagna. Ne parliamo perché nei giorni scorsi sulle reti sociali ha circolato largamente un curioso scatto fotografico, un selfie, fatto da un giovane ranger antibracconaggio. In primo piano c'è il ranger stesso, Mathieu Chamavo, e alle sue spalle, ben visibili a figura intera, compaiono due giovani gorilla, in posa di tre quarti, con lo sguardo incuriosito, ben consapevoli d'essere fotografati. È un'immagine bellissima che dovrebbe servire ad attirare l'attenzione sulla delicata situazione del Virunga, protetto da circa 600 ranger, ma oggetto di famelici appetiti. Il Virunga è in Congo, ma appartiene a tutto il mondo, e perciò vi invitiamo a sostenere il parco visitando il sito virunga.org. Sempre a proposito di animali a rischio di estinzione, dobbiamo nominare il Giorno della Terra, che si è celebrato lo scorso 22 aprile per la 50ª volta. Questa ricorrenza ci ricorda da quanto tempo, ormai mezzo secolo, sia in azione l'allarme per l'attacco umano all'ambiente, con esiti purtroppo minimi. Uno dei dati più sconsolanti diffuso il 22 aprile proviene da un rapporto delle Nazioni Unite, secondo il quale fra 500.000 e 1 milione di esseri animali e vegetali sono destinati ad estinguersi nell'arco dei prossimi decenni. Un termine temporale piuttosto vago, ma comunque molto ravvicinato. I tecnici dell'ONU avvertono che la velocità di estinzione delle specie è già di decine di migliaia di volte superiore alla media degli ultimi milioni di anni. Sono cifre che sgomentano, ma sono anche una ragione in più per agire e sentirsi parte del movimento globale che si batte contro i cambiamenti climatici e quindi per l'abbandono di quell'idea di sviluppo che è ormai incompatibile con il mantenimento di decenti condizioni di vita sul pianeta Terra. sono tanti modi di essere animalisti, come avrà facilmente compreso chiunque abbia seguito la nostra programmazione in questi anni. Un aspetto che ci è sempre parso molto interessante è la ricerca teorica che si sta sviluppando attorno alla questione animale, emarginata dal discorso pubblico, ma oggetto di molta attenzione da parte di filosofi, studiosi e attivisti. È un'elaborazione intensa e vivace, specie nelle sue dinamiche più avanzate, meno legate al passato e a un certo quietismo che fatalmente prevale in un mondo, come quello animalista, che si sente marginale nel discorso pubblico e perciò preferisce disturbare poco, magari per farsi accettare, proponendosi quindi in modo conciliante, in politico. Marco Reggio e Niccolò Bertuzzi, attivisti e studiosi accreditati, hanno esplorato proprio la parte più avanzata del movimento di liberazione animale nel libro Smontare la gabbia, pubblicato dall'editore Mimesis. Roberta Marino ha intervistato per noi Marco Reggio. Marco Reggio, curatore con Niccolò Bertuzzi del libro Smontare la gabbia, è un libro che ha un filo conduttore nonostante tanti capitoli e tematiche diverse. Qual è questo filo conduttore? E abbiamo cercato di dare voce, dare parola a tutta una serie di aree, di autori, autrici, attiviste di vari ambiti, anche collettivi come il collettivo Resistenza Animale, il collettivo Bioviolenza, Agripunk, che trattano temi disparati che in qualche modo pongono tutta una serie di elementi di novità per l'attivismo antispecista dal punto di vista teorico e pratico. Quali sono le gabbie da smontare e come si possono smontare? Ci dà una strada, una via questo libro? Chiaramente non abbiamo pensato a delle ricette semplici né diamo delle risposte univoche e definitive a tutta una serie di problemi aperti, anzi ne apriamo o ne facciamo aprire dai diversi autori e autrici di nuovi, di ulteriori e di più complessi. Cerchiamo però di suggerire degli strumenti per smontare le gabbie. In che senso? Nel senso, da una parte sicuramente di non accontentarsi di allargarle le gabbie, come già l'animalismo radicale, l'antispecismo radicale, come dire, sostiene con forza da anni, forse ormai da decenni. Quindi, come dire, una presa di posizione anche rispetto sicuramente a un certo protezionismo, a un certo gradualismo, per esempio al tema del benessere animale, della carne cosiddetta felice con mille virgolette, però nello stesso tempo anche non accontentarsi di altri slogan che sicuramente sottoscriviamo, come quelli legati alla distruzione diciamo delle gabbie, distruzione spesso proprio materiale, nella convinzione invece che sia importante comprendere come queste gabbie si costruiscono dal punto di vista concettuale e materiale, cioè in che modo si può anche, come dire, contestare le norme che presiedono la costruzione di queste gabbie in maniera che queste gabbie non possano, dopo la loro distruzione, diciamo, essere riedificate eternamente. Dal punto di vista invece di Marco Reggio, dopo aver redatto insieme ad altre persone questo libro, che conclusioni hai tratto rispetto alla direzione che sta prendendo, che ha preso, che potrebbe prendere l'antispecismo? Parliamo dell'Italia. Giusto parlare dell'Italia, tra l'altro il libro, diciamo, si concentra proprio, sì, soprattutto sulla situazione italiana. In questo anno in realtà abbiamo assistito a una fase in cui in realtà il movimento antispecista in Italia per certi versi è abbastanza silente, cioè non ci sono più le grandi campagne che avevano caratterizzato, diciamo, l'ultimo decennio, c'è una carenza di pratica e contemporaneamente però c'è una diffusione di alcune parole d'ordine, di alcuni temi come quello del veganismo, diciamo, no? Cioè si è assistito a un'esplosione anche commerciale, però purtroppo che è intervenuta proprio in questo periodo, sicuramente è la prima mobilitazione di 269, del gruppo 269 in Italia, con l'occupazione del mattatoio di Torino. Questo tipo di mobilitazione, di azioni dirette, siano una boccata d'ossigeno perché, come dire, riportano anche all'impegno di un movimento che utilizza il corpo, proprio la materialità del corpo per opporsi allo sfruttamento di altri corpi, certamente altrettanto materiali, no, che sono quelli nei mattatoi, negli allevamenti. Thank you. Requiem sul VC è un racconto breve e brillante dello scrittore argentino Andrés Neumann, contenuto in Vite brevi in italiano, edito da Sur. L'attenzione del protagonista, seduto sul gabinetto, è attratta da un ronzio che improvvisamente sente in un angolo del bagno. Si accorge che è una mosca che sta morendo. La situazione è l'occasione per delle riflessioni sulla vita umana e rapporto con la morte, ma soprattutto della nostra relazione con gli altri animali. Guarda ancora una volta le sue ultime vibrazioni, il suo agitarsi. Guarda ancora una volta le sue ultime vibrazioni, il suo agitarsi. Nell'istante della nostra morte ci osserverà qualcuno come io osservo la mosca? E se così fosse, chi? Un medico? Un parente? Dio? Lo Stato? Non so se in una simile situazione avremo tutti la dignità di questa mosca, la sobrietà autosufficiente con cui mi sembra pronta a cessare di esistere. Nel 2015 esce Pelican Wee, un EP di Cosmo Sheldrake, un musicista, compositore, produttore, polistrumentista inglese. La seconda traccia si chiama The Fly, il cui testo è tratto dalla composizione di William Blake, dal nome appunto The Fly. Anche Benjamin Britten nel 1965 aveva musicato questa poesia. L'inizio è questo. Piccola mosca, il gioco della tua estate, la mia spensierata mano ha spazzato via. Summer's play, my thoughtless hand has brushed away. Am I not a fly like thee, or art thou not a man like me? For I dance and drink and sing till some blind hand shall brush my wing. Thought is life and strength and breath, and the want of thought is death. L'11 aprile scorso Julian Assange è stato arrestato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra dopo quasi 7 anni di autoreclusione sotto la protezione dell'asilo concesso dall'ex presidente ecuadoriano Correa. Il nuovo presidente Moreno ha però revocato l'asilo e così Assange, famoso per aver rivelato importanti segreti militari statunitensi, in particolare sulle guerre in Afghanistan e Iraq, è finito in carcere. La lunga detenzione del fondatore di Wikileaks è stata seguita nel tempo con grande attenzione dai media di tutto il mondo e così anche James, il gatto di Assange, è diventato un personaggio popolare, grazie anche alle reti sociali e a qualche fotografia, come quella che lo ritraeva alla finestra con un beffardo collare a forma di cravatta. Ebbene, con l'arresto di Assange ci si è subito chiesti che fine abbia fatto James. Forse è arrestato anche lui? O è rimasto nell'ambasciata dell'Ecuador? E in questo caso, con quale status? Per qualche giorno, subito dopo l'arresto, la sorte di James ha suscitato curiosità e apprensione. Poi lo staff di Wikileaks ha fatto sapere che James è in salvo, affidato da amici di Assange già dallo scorso mese di ottobre, quando la pressione su Julian da parte del governo ecuadoriano stava già salendo. Dunque James sta bene. Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, ha dedicato a lui il suo spazio di etica gastronomica. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, Anzac biscuits, noti come i biscotti dei soldati, molto diffusi in Australia, la stessa terra che ha dato i natali a Julian Assange, combattente dei nostri tempi che, pur lottando senza armi, si può definire prigioniero di guerra. Gli ingredienti sono 150 g di farina, 100 g di fiocchi di avena, 100 g di zucchero di canna, 80 g di cocco disidratato in scaglie, 125 g di margarina autoprodotta, 80 g di sciroppo di acero, un pizzico di sale e mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio. In una bowl mescolate la farina assieme ai fiocchi di avena, il cocco, lo zucchero di canna e il sale. A parte, in un pentolino, fate sciogliere la margarina autoprodotta. Quindi aggiungete, mescolando, lo sciroppo di acero. In una tazzina fate sciogliere il bicarbonato in un cucchiaio di acqua calda e versate nel pentolino mescolando. Unite la parte liquida nella bowl e impastate con cura. Con le mani inumidite realizzate delle palline grandi come una noce e disponetele in una teglia con carta forno. Fate cuocere in forno caldo a 175 gradi per circa 20 minuti. Togliete dal forno e fate raffreddare prima di servire. Well, how did I get here? Letting the days go by. Letting the days go by. Into the blue again. Once in a lifetime. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by. Letting the days go by. Into the blue again. Once in a lifetime. Un milione di firme raccolte in una petizione per liberare 100 balene detenute illegalmente in un'area della Russia del Nord dalla metà dello scorso anno. Nemmeno l'accorato appello di Leonardo DiCaprio, che con la sua fondazione dedicata alla salvaguardia dell'ambiente era intervenuto sulla faccenda, sembrava essere stato efficace. Ma adesso finalmente la svolta. Su Repubblica.it dell'8 aprile veniva diffusa la buona notizia. Alla fine hanno vinto gli ambientalisti. Le balene saranno liberate e restituite al mare. Il ministro russo delle risorse naturali, Kobilkin, ha dato il via libera alla liberazione dei 100 cetacei detenuti nella baia Zredinyaya, nei pressi di Vladivostok, nella Russia orientale, destinate ad essere venduti ad acquari cinesi. Per l'acquisto di un'orca, i parchi marini cinesi pagano fino a 3,5 milioni di dollari e 150.000 per un beluga. Dal 2013 al 2017 la Russia ha esportato in Cina 15 orche. In tutto si tratta di 87 beluga e 11 orche, alcune con piccoli appena nati, rinchiusi in uno spazio marino recintato di poche centinaia di metri che consiste per loro in una vera tortura, dato che sono animali grandi e abituati a spazi illimitati. Per valutare tempi e modalità di liberazione dei cetacei, il governo russo si sta avvalendo delle competenze di Jean-Michel Cousteau, figlio del famoso oceanografo francese Jean-Jacques Cousteau e direttore della Ocean Futures Society. Reinserirli in natura non sarà facile. Se le barriere fossero aperte oggi, le loro capacità di sopravvivere da soli sarebbero davvero limitate. perché questi sono animali fortemente legati al gruppo familiare. L'idea è quella di provare a rilasciarli nel punto più vicino al luogo in cui sono stati catturati, in modo che possano ritrovare la propria famiglia e che i cetacei più giovani siano aiutati da quelli adulti, un processo che potrebbe richiedere anni. È doveroso riconoscere il merito degli attivisti locali russi e del sito di informazione VL.ru, che per primo aveva denunciato la presenza dei cetacei catturati. La lezione che impariamo da questa storia è che essere presenti sul territorio, controllare, monitorare, documentare e denunciare è una cosa che ciascuno di noi nel suo piccolo può fare e che fa la differenza. What a wicked thing to say. You'll never feel this way. What a wicked thing to do. To make me dream of you. And learn. Don't wanna fall in love. Something gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. Something gonna break your heart with you. Per chiudere, vi proponiamo un piccolo spot non commerciale messo a disposizione dal progetto Agire Ora Network, una rete che promuove campagne, iniziative, progetti a difesa degli animali. Questo breve audio riguarda gli animali domestici più misteriosi e incantevoli che conosciamo, i gatti. Ma quanto sei bello! Allora, mi prendi con te, anche se ho la FIV? Sì, anche se hai la FIV. La FIV è una malattia che contagia solo i gatti, soprattutto attraverso morsi e graffi, mentre non è contagiosa né per noi né per altri animali. Un gatto FIV positivo, tenuto in casa, può vivere bene tutta la sua vita come un gatto normale. Adottare un gatto FIV è un gesto di civiltà e di amore. Campagna promossa dall'associazione La Cincia Onlus. www.lacincia.it. Questa puntata è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Giuseppe Coco, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.